sera in questa sala, perché in realtà c'è stato mesi di lavoro alle spalle. Abbiamo qui Mario Buccini, che è stato scelto tramite delle primarie vere, le abbiamo chiamate noi, perché vivamente insomma abbiamo premuto perché si fosse un processo largo e partecipativo anche per fare le primarie. Primarie vere sono state davvero. Sentiamo Marco, è meglio usare il microfono. Non sento più. No, c'è il microfono. Allora, ci volete il microfono, io lo metto, non c'è problema. Però... se è necessario, io vado avanti. Prendiamo quello lì lungo, ci vola. Un attimo che prendo le cipolle. Insomma, tento di tenere la voce più alta. Sono state primarie vere davvero, tutto il contrario di quello che immagino tutti quanti abbiate visto adesso dall'altra parte consumarsi in una faida tra parti. Invece questo processo poi è continuato nei gruppi di lavoro che Mario Lucini ha messo in piedi, e quindi diciamo che la possibilità adesso di essere qui a questo tavolo, cioè che erano tra di noi sul programma, è una cosa che nel tempo, come dire, si è costruita ed è stata anche grazie alla disponibilità, no, che c'è stata da parte del candidato sindaco di mettersi in gioco fino a questo punto. Allora abbiamo pensato di trovarci così in cerchio anche per dare veramente una differenza nel modo con cui si possa dibattere, no? In una situazione che è paritaria, dove quel che è stato fatto può essere discusso e che tantissimo ancora c'è da fare, che speriamo che questo modo di far politica, dipende tutto anche da noi, continui anche nel corso di tutta la prossima amministrazione, che ovviamente ci auguriamo potrà essere guidata da Mario Buccini. E quindi in questo senso qua io credo che quello che più interesserebbe sapere è quali sono le aspettative che si hanno sulla città, se ci sono dei temi che a voi sono particolarmente cari di portarli al dibattito. Questa possibilità c'è adesso e ci sarà ancora, e quindi io dico, sfruttiamo questa bella situazione che raramente io immagino abbiamo potuto avere, quella di parlare direttamente con un candidato a tu per tu, come stiamo facendo stasera. Sfruttiamo, perché insomma secondo me la riuscita di questa serata è un po' la riuscita della democrazia o della buona amministrazione, c'è se ci siamo tutti e c'è ciascuno, insomma, e quindi che si possa anche condividere responsabilmente delle scelte invece che delegare qualcuno e poi eventualmente portare, perché le cose non sono andate nel verso in cui ci si sperava. E quindi insomma, ecco, dico, responsabilmente ciascuno di noi, se vuole portare al dibattito delle proprie cose, io personalmente comincerei così. Giampaolo ci aiuterà a far girare il cerchio. Questo cerchio non ha nulla di magico, come qualcun altro invece da altre parti pretende. Questo cerchio l'ho fatto di persone, e quindi la parola in realtà è a voi. Sì, le regole del gioco sono quelle di una chiacchierata, tra amici, no? E quindi quello che prima di tutto io mi permetto di proporvi è di approfittare della presenza di Mario Lucini per capire cosa per ciascuno di noi significa cambiare passo, no? Cosa per ciascuno di noi è importante che cambi davvero, no? Credo che le persone che sono qui condividano una difficoltà che hanno potuto vivere negli anni precedenti, nei quali la destra è una destra particolarmente incapace, ha amministrato la città. Però da questa situazione di disagio, per poter costruire, abbiamo bisogno anche di identificare quali possono essere le idee. Le idee non sono soltanto il programma, sono anche qualcosa di più, sono i sogni, sono le aspettative, sono i contesti. Noi abbiamo la certezza, perché su questo si sono basate le primarie, che appunto sono state vere per questo, che i candidati sindaci, e in particolare il candidato sindaco Mario Lucini, che le primarie ha vinto, sono disponibili, è disponibile a un processo, come dire, di formazione, nel quale il candidato ha ovviamente le proprie idee, ha ovviamente il proprio programma, che peraltro viene anche dal confronto di molte persone, ma è disponibile non solo a ascoltare, ma anche a ragionare su come le idee di tutti noi possono costituire fatti. Quindi il primo invito, so che è difficile, è quello per ciascuno di voi a cominciare a dirci cosa c'è che vorrebbe, quale aspetto anche di stile chiede alla nuova amministrazione che ci auguriamo sia guidata da Mario Lucini, al consiglio che per la prima volta sarà un consiglio nel quale c'è attorno a Mario Lucini una gamma di proposte concordi, perché la concordia è uno degli elementi di questa nuova stagione politica. Ecco, io sto cercando di perdere tempo in attesa che qualcuno alzi la mano, se no, avendo io un'esperienza di insegnante, vi avverto che passerò alle interrogazioni. Entro un certo limite si accettano i volontari, poi purtroppo siamo abbastanza pochi da evitare, come dire, delle formalità di carattere burocratico. Chi è qui ha certamente qualcosa da dire e a me spetta costringervo a dirle, dopodiché ovviamente lo stesso trattamento di interrogatorio sarà riservato anche al nostro candidato. Allora, chi comincia? Allora, io dico, no, no, ma parlo ad alta voce, credo che si sente. Se non si sente me? Non si sente. Ecco, posso venire anche io? No, no, io ho il compito del portamicrofono, il cellulare. Niente, questo. Io amo molto la città, volante. Anche se non sono stata una cittadina, sono una cittadina adottata a Como, però mi è piaciuta, mi sono trovata sempre bene, però da un po' di anni veramente vedo che sta andando molto indietro, prima di tutto giù al lago, che Piazza Cavour era proprio la cartolina e invece è diventato uno proprio, e questo mi dispiace molto. E poi un'altra cosa, per esempio la stazione centrale, che a me capita ogni tanto andare o arrivare di sera, e veramente ho paura perché non c'è più nessuno, è tutto chiuso, e quindi questo mi spaventa. Poi che cosa c'è anche alla stazione? Non c'è la possibilità, non c'è uno scivolo per poter portare una valigia, quindi ci sono le scale da fare. E vedo anche altre persone o handicappati, veramente è un grosso problema. E poi io abito qui a Camerlata, vabbè che è un centro di passaggio, quindi non c'è una passeggiata se uno va a piedi, questo non è possibile, non c'è niente. E poi i sottopassaggi, che io andando a lavorare facevo spesso, e adesso qualche volta attraverso tutti i semafori per non andare sotto il sottopassaggio, perché c'è davvero paura. Ecco, proprio non so se si può fare qualcosa, ecco, un pochino più di sorveglianza, forse qualche vigile che ogni tanto può passare, perché mi è capitato qualche mese fa era di giorno che ero andata lì alla Caniplo, alla Banca Intesa, e ho visto due ragazzi, forse stranieri, che accendevano fuoco e mi sono spaventata davvero, che sono tornati indietro. E qui ci sono persone anziane, è un rione, e proprio non c'è controllo, non c'è mai un vigile, non c'è mai nessuno. Però io non vedo mai. E poi un'altra cosa ancora, che l'avevo questo già fatto osservato ai vigili, c'è il semaforo di Piazza Camerlata che è molto breve. Io che non sono ancora in stato di anzianità, però non ho un passo molto svelto, oppure una donna con un bastoncino porta il bambino, non si fa in tempo ad arrivare dall'altro lato perché è già rosso. Quindi se si può correggere quello. Ok, grazie. Dunque io direi di far parlare volta per volta il nostro candidato sindaco per avere la possibilità che le risposte sui singoli temi siano puntuali. No? Quindi, allora innanzitutto saluto tutti, riprendo un attimino l'intervento di Marco che aveva aperto l'incontro. Ricordando che appunto dopo il percorso delle primarie si è attivata con la collaborazione di tutti quanti i candidati e i loro sostenitori che avevano partecipato alle primarie, si è aperto un percorso di lavoro per la costruzione di un programma il più possibile allargato, con la partecipazione allargata e condivisa. Per un mese e mezzo circa 150 persone sono state coinvolte in incontri tutte le settimane, a volte più di uno a settimana, per raccogliere le idee, fare proposte, e il lavoro si è concluso 15 giorni fa, adesso stiamo ricomponendo tutte le proposte. Quello che si è detto però sin dall'inizio è che quel lavoro era un lavoro importante, partecipato, ma non era un lavoro finito. Quindi questa è una delle occasioni, altre ce ne saranno, nelle quali si incontrano i cittadini per avere spunti nuovi e per poter portare sempre un aggiornamento, un'integrazione a quelle che sono state le proposte delle pur tante persone che hanno partecipato, perché sappiamo benissimo che per riuscire a cambiare qualcosa in questa città, nella situazione in cui siamo, c'è bisogno davvero della collaborazione, dell'impegno di tutti, e bisogna essere capaci di ascoltare e raccogliere il più possibile le percezioni, le sensibilità, le idee di tutti i cittadini. Per cui questo percorso programmatico continua a essere aperto, questa è una prima occasione, ce ne saranno altre per ragionare ed eventualmente ampliare quelle che sono le nostre proposte. Su Piazza Cavour, vabbè, la prima, questa è una ferita pesante nella nostra città, voi sapete tutti, penso, perché è una cosa abbastanza nota, che questa ferita è frutto di una scelta testardamente portata avanti da questa maggioranza, nonostante tutte le segnalazioni, le valutazioni che indicavano assolutamente l'inopportunità di imbarcarsi in questa avventura fatta da molti anni da tutte le minoranze, non semplicemente per fare i bastian contrari, ma perché molti avevano la percezione del danno incredibile che sarebbe stato recato alla città e dell'errore comunque concettuale di un intervento che, al di là delle difficoltà esecutive, segnava la fine o una cesura del rapporto tra la città e il lago, che è sempre stato un rapporto che ha contraddistinto Como e vitale per Como. Quindi questo considerare il lago come un nemico si è ritorto contro la città che si è trovata bloccata da interventi insensati e molto complessi e che ancora non si sa come potranno proseguire. La situazione sarà difficile da risolvere perché il lavoro è a metà, di fatto è stata realizzata una parte del progetto originario nella zona da Piazza Cavour verso i Giardini a Lago, mentre è ancora appena iniziata quella da Piazza Cavour verso, verso Sant'Agostino, poi ci sarebbe ancora da fare il pezzo davanti a Piazza Cavour. La nostra valutazione è che i tempi lo dicono, le difficoltà lo dicono, bisogna trovare modo di uscire quanto prima da questo progetto, cercando di ricontrattare le condizioni sia con la società che ha vinto l'appalto sia con la Regione Lombardia, per limitare al minimo le opere nel sottosuolo che sono pericolosissime per la città e per gli edifici che stanno vicino al lago e che di fatto rendono molto imprevedibile il futuro delle, delle influenze che potranno avere sulla città, per cui limitare al minimo le opere nel sottosuolo, individuare in modo anche condiviso con la popolazione un intervento di riqualificazione superficiale del, del lungolago per quanto riguarda gli arredi e rinegoziare anche le quote di massima regolazione del lago previste dal Consorzio dell'Adda. Voi sapete che con la vendita dell'acqua del lago di Como la Regione Lombardia incassa annualmente 11 milioni di euro per l'acqua venduta all'agricoltura nel basso bacino dell'Adda. Ridurre di qualche decimetro la massima quota di invaso vuol dire ridurre di un pochino questa enorme somma senza pregiudicare la possibilità di di svolgere le attività agricole. Sì. C'è qualche contatto. Per cui già ridurre di qualche decimetro la massima quota di invaso del lago consentirebbe di ridimensionare il progetto e di uscire quanto prima dall'impasse in cui si è arrivati. Ricordiamo che sono ormai più di 4 anni. Doveva finire in 3 anni questo lavoro, sono passati 4 anni, non siamo arrivati, siamo appena un terzo del lavoro. Per quanto riguarda le altre questioni, sono questioni minute ma importanti, nel senso che danno la misura di una cosa essenziale, cioè che è successa in questi anni, della dimostrazione della scarsa cura nei confronti della città. E la scarsa cura da parte dell'amministrazione, al di là dei problemi finanziari che possono esserci, la scarsa cura è il principale elemento che poi favorisce il degrado, che favorisce il disamoramento anche dei cittadini nei confronti del bene comune, per cui se nessuno se ne cura, perché dovrebbero curarsene i cittadini, se l'amministrazione in primis non è attenta a queste cose. Per cui un primo segnale forte, che sicuramente non è risolutivo per il futuro della città, che ha bisogno anche di molte altre cose, però già un segnale di attenzione, di amore, di cura nelle piccole cose darebbe una prospettiva diversa anche alla relazione tra i cittadini e la città e anche alla relazione tra i cittadini tra di loro. L'ambiente poco curato, il disinteresse dell'amministrazione rende anche difficile instaurarsi di relazioni un po' più vicine, un po' più solidali tra i cittadini. Non possiamo pensare di risolvere i problemi della sicurezza esclusivamente con la presenza delle forze dell'ordine. Certo, qualche passaggio in più, qualche presenza rassicurante in più in determinate situazioni sarebbe importante, però credo che il passo decisivo sia quello anche delle relazioni diverse tra le persone. Se si crea un clima per cui se c'è qualcosa che non va non ci giriamo tutti dall'altra parte ma siamo pronti ad ascoltarci e se è il caso darci una mano, credo che un atteggiamento di questo tipo sia più efficace ancora che, o comunque possa integrare ampiamente quella che pur necessaria presenza di un minimo di vigilanza. E, vabbè, questo comprende un po' anche queste piccole cose di attenzione sulla temporizzazione dei semafori piuttosto che altre cose che sono semplicemente rimediabili essendo un po' attenti ed ascoltando quello che viene dai cittadini, non credo che cambi molto per il comune attaccare due secondi in più o in meno, basta saperlo e lo sai, siccome non tutti passano sulle strisce pedonali di Piazza Camerlata, non tutti i consiglieri comunali, non tutti gli assessori, non il sindaco magari fanno le prove di tutti i passaggi pedonali, devono avere l'umiltà di ascoltare quelli che lo fanno. E per cui l'ascolto consente di superare tanti piccoli problemi che non richiedono impegni finanziari ma che possono migliorare comunque la vita dei cittadini. È stato un po' lungo, ma se faccio così tutte le volte magari parlo di cose. Vediamo qualche altra idea, no? Questa era una prima domanda che però già conteneva moltissimi elementi, no? Altri si fanno sicuramente avanti per esempio mi viene in mente l'articosa, io se parlo quando finisco però non voglio portare. Beh, ma i cittadini spesso ce lo segniamo, vediamo, però non diamo l'alibi agli altri per non intervenire, dopo parliamo anche dell'articosa nel frattempo vediamo se interviene qualcun altro. Ma ad esempio Mario, che pensi dicevi adesso di poter dare ascolto ai cittadini, no? Io mi immagino cittadino che voglio segnalare il passaggio pedonale troppo veloce, da chi vado? Cosa pensi di poter fare per avere questa interfaccia con chi può aver bisogno? Sì, Mario sicuramente coglierà che questa è una super domanda, perché dietro questa domanda c'è il significato stesso della democrazia partecipativa, perché il problema che noi poniamo a Mario, che ognuno di noi credo va a inserire in diversi argomenti, non è tanto quello dell'ascolto quanto quello della ricerca comune di soluzioni. Allora, io credo che la domanda, scusami se provo a interpretarla, è quella non tanto di vedere se ci sarà, come dire, un ufficio dei grandi, che c'è già, no? Quanto piuttosto di vedere quando ci sarà da investire in Piazza Camerlata, come farà Mario a trovare la soluzione migliore, certo con la sua intelligenza, con la sua competenza, con il suo consiglio fatto di persone serie, competenti, oneste e quant'altro, come ci auguriamo, ma poi ci vorranno anche dei metodi. Ecco, qual è il tuo? Allora, prima di tutto tu hai fatto solo un accenno perché non era la cosa più importante, ma comunque è giusto ricordarlo, anche perché è uno strumento che può essere utilizzato. È quello che lo sportello comunque di accesso ai cittadini, non tutti ne sanno che esista, quindi comunque è il caso di sottolinearne la presenza e l'opportunità di utilizzo. È un primo strumento minimo, ma lo sportello per il pubblico che c'è a Palazzo Cernezzi è anche quello uno strumento da usare. C'è una nuova situazione nella prossima legislatura. Non ci saranno più le circoscrizioni che sono state abolite dalla normativa vigente. Devo dire che, essendoci stato per tanti anni in circoscrizione, essendomi battuto per tanti anni perché venissero valorizzate come strumento prezioso, devo dire che negli ultimi anni hanno perso molte delle loro potenzialità. Ha sempre avuto delle difficoltà in termini di ascolto dall'amministrazione centrale, però a mio avviso il punto chiave è stato, se non sbaglio, nel 2001, quando si è passati dal sistema elettorale proporzionale a un sistema maggioritario delle circoscrizioni. Essendo un organismo consultivo, quindi serviva per fare da collegamento tra i cittadini anche l'amministrazione comunale e viceversa. Quindi l'elemento caratterizzante doveva essere la rappresentatività, non la capacità di gestione, perché non aveva nulla da gestire in pratica direttamente. Quindi l'elezione proporzionale era vitale per dare comunque un'impronta di rappresentatività a questi organismi. La maggioranza, sempre questa di centrodestra, ha voluto passare al maggioritario, per cui di fatto da allora i consigli sono risultati costituiti da persone sempre meno rappresentative, perché il divario tra chi vinceva per un voto e chi perdeva portava il doppio in pratica dei consiglieri in consiglio, consiglieri che rappresentavano poco più che se stessi, per cui la capacità anche di relazione col territorio, di ascolto e di confronto è andata sempre più perdendosi, per cui devo dire con rammarico che la cessazione dell'attività di questi consigli, tutto sommato, visto come erano ridotti, non costituisce una perdita drammatica. Certo, bisogna pensare di sostituirli con altri meccanismi di partecipazione. Una prima ipotesi che dovrà essere misurata sul campo e sul territorio, perché sicuramente non siamo più negli anni 70 con lo spirito degli anni di partecipazione degli anni 70 in cui sorsero i consigli di quartiere spontanei, però l'opportunità di verificare la possibilità di favorire la nascita di organismi di questo tipo, secondo me è da percorrere. Dopodiché ci sono altri strumenti, come quantomeno su scelte rilevanti per il territorio sul quale devono essere realizzate, devono prevedere forme di confronto, di illustrazione delle proposte, di ascolto delle controdeduzioni ed eventualmente raccolta di suggerimenti utili che l'amministrazione deve fare sul territorio. Quindi deve esserci, c'è la necessità di individuare anche dei percorsi di confronto su scelte significative, ovviamente non su qualsiasi riasfaltatura di marciapiede, però su interventi che hanno un'influenza sul territorio deve crearsi anche questo tipo di relazione, di sperimentazione. Si è parlato anche molto nel corso della discussione sul programma, e se ne parlerà ancora, se qui Danilo ci sarà un incontro la settimana prossima, sulle sperimentazioni, e non solo sperimentazioni, sulle procedure che sono state attivate in diversi comuni di bilancio partecipato, cioè di percorsi nei quali la scelta di destinazione di risorse per determinati interventi su varie aree del territorio viene costruita con la partecipazione dei cittadini attraverso incontri sul territorio, assemblee pubbliche e scelte dirette. Ovviamente queste scelte dirette, quantomeno inizialmente, potranno riguardare solo una parte più o meno grande del bilancio comunale. Comunque anche questa è una forma che sarà sicuramente sperimentata e favorita per costruire sempre più scelte condivise. Questo non significa evitare di fare scelte che possano trovare diverse persone non concordi, perché sicuramente l'accordo su tutto sarà difficile trovarlo con tutti, ma vuol dire fare scelte più consapevoli. Quindi sapere di scontentare qualcuno, se si scontenta qualcuno si deve anche essere in grado di dire perché e di spiegarlo. E questo credo che sia comunque una cosa importante, perché fare delle scelte senza essere in grado o senza ritenersi in obbligo di spiegare le ragioni delle scelte e di spiegare perché non si ritiene valido quello che propone qualcun altro, è una cosa che nuoce alla comunità. Parlare un attimino di un governatore. Ora, io io mi sono adoperato molto spesso in questi anni che vivo in Piazza Cavallata, sollecitando molto spesso a responsabile del personale. Una volta mi è stato mandato una squadra di figure, perché mi sono un pochettino arrabbiato, per due giorni di seguito erano qui in quattro a pulire, non pulire sotto passaggio, eccetera, eccetera. Dopodiché non si è fatto più vedere nessuno. Dai vari solleciti di questo sistema, di questa sporcizia che abbiamo in Piazza Cavallata, e non dico solo Piazza Cavallata, dico perché noi viviamo qui, io vivo qui, mi sono permesso di reclamare con l'addetto operatore, mi è stato detto di non rompere i cosiddetti, perché devo reclamare l'ufficio addetto. Mi sono permesso di chiamare il responsabile, ripeto, posso dire anche chi, non lo dico perché siamo perdere. Ora, no, no, non lo voglio dire perché non c'è presente, non si può dire. Va bene, va bene. Allora, io intendo, cioè, vorrei sapere da voi, da lei e dal suo risulta, e dal suo gruppo, cioè, come intendete? Il responsabile alla fine chi viene? Chi lo gestisce questo operatore, questi operatori ecologici? Chi è che li segue? I vigili, non i vigili? Sono controllati, non sono controllati? Perché noi cittadini dobbiamo sentirci dire parolacce, eccetera, eccetera? Noi vediamo questo, io vedo questo soggetto, questo operatore ecologico che arriva in piazza, mette il sotticino, va nel bar, vede qualcosa, esce fuori, pulisce con sul marciapiede. Poi prende il triciclo, viene dentro qui, raccoglie le cosettine della spazzatura, viene, se ne va, fa il giro, poi torna un'altra volta sul punto di partenza e via via, fino alle 11:00 e mezzo dopo questo ciclo, no? Ma rimane sempre sporco. Io mi faccio chiedere, l'altra mia cosa, non l'ho mai visto sporcare, mai visto pulire, no? Se non sono io la mattina che mi alzo, arrivo, pulisco fino a un certo punto, no? Ora, la cosa che mi deve spontaneo chiedere, chi è chi controlla questo? C'è qualche vigile, qualcuna volta venivano sorvegliati dai vigili, dai cosiddetti vigili di quartiere, gli dicevano cosa dovevano fare, no? Oggi i cittadini non possono più parlare e se ci permettiamo di chiamare l'ufficio addetto, ci dicono sì, non abbiamo personale, mi è stato detto che la persona che opera in Piazza Cavallata è praticamente ammalato e dobbiamo compatirlo. Allora io gli disse, ma perché non lo tenete nell'ufficio e mandate una persona che possa lavorare? E ancora questa persona opera in Piazza Cavallata. Grazie. Prego. Prego. Come stiamo nel tema simile, mi associerei ad alcune cose che sono già state dette. Vorrei dire prima però che noi abbiamo tutti sotto gli occhi quello che è stato il degrado pesante della città negli ultimi 10 anni, a parte il discorso dei grandi progetti dei quali non ne abbiamo visto nessuno andare a buon fine. Ecco, vediamo che la città è pesantemente decaduta. Le osservazioni che sono state fatte da queste persone che vivono a Cavallata, dove pure vivo anch'io, sono di questo tenore, e però anche scendendo in città non è che qui sicuramente le cose stanno peggio che altrove, però anche scendendo in città non è che ci si renda conto di una gestione anche solo del decoro pubblico che sia accettabile. Quindi in questo senso io mi rivolgerei ai futuri amministratori della città perché nei limiti di quello che sarà possibile fare si ritornasse a una gestione vera di questi problemi. Una volta credo che ci fossero degli uffici tecnici comunali che verificavano come venivano fatti i lavori dati in appalto. E questo è una cosa che noi non vediamo più da moltissimi anni. E questo tutte queste cose sono le cose che portano alla disaffezione del cittadino, al disinteresse del cittadino nei confronti di qualsiasi aspetto di cosa pubblica. Quindi al di là di progetti significativi, importanti, che noi pure ci auguriamo che l'amministrazione Puccini possa proporre alla città, io credo che il primo assolutamente più importante gradino da affrontare sia quello di una manutenzione della città. Noi abbiamo visto quantità di lavori anche di un certo rilievo fatti, che sono stati fatti poi abbandonati completamente a se stessi senza nessun tipo di manutenzione, fino alla distruzione. Le passeggiate a lago stanno crollando e via di seguito. Effettivamente mi associerei a quello che già altri cittadini di Camerlata hanno detto. Camerlata è un rione che è assolutamente abbandonato a se stesso. A parte il grosso problema di questa area extremitex, che a un certo punto ha passati anni e anni e anni, dovrebbe arrivare ad una soluzione e alla soluzione del quale si rimanda un nuovo aspetto del rione di Camerlata. Però ecco, io credo che su questi temi ci dovrebbe essere una grossa parte di impegno. L'ultima riflessione, ancora riferita proprio al quartiere di Camerlata: noi sappiamo che la popolazione di Camerlata ha subito in questi ultimi anni un pesantissimo invecchiamento, un pesantissimo livello di invecchiamento, nel senso che le nuove famiglie si sono andate ad assestare in zone più appetibili, più periferiche, e qui c'è una percentuale di anziani molto, molto elevata. A Camerlata non c'è tra Camerlata e Rebbio non c'è un percorso di qualche chilometro in ambiente respirabile che possa essere fatto da degli anziani, che è giusto che abbiano modo di muoversi, che abbiano modo di mantenere la loro salute anche facendo un minimo di attività fisica. E questa è un'altra delle cose che io mi sentirei di stressare al massimo, che ce ne sarebbero molte altre, ma mi pare che già siano sufficienti queste. Grazie. Sì, non sono poche, in effetti, non sono problemi trascurabili. Il primo punto vitale che avete toccato entrambi, e vale a livello generale, è quello del controllo degli appalti. Ed è evidentissimo a tutti che in questi anni non c'è stato un'attenzione sufficiente in questi termini. E soprattutto credo che possa essere utile, oltre che prevedere un diverso approccio, una diversa presenza sul territorio da parte degli uffici, che anch'io ho visto in questi ultimi anni, raramente vedono uscite per controlli sulla effettiva e corretta esecuzione degli incarichi assegnati da parte delle ditte appaltatrici, potrebbe aiutare anche, sempre in termini di trasparenza e di partecipazione, il discorso che facevamo prima, la possibilità, l'opportunità di rendere pubbliche, soprattutto su alcuni settori facilmente riscontrabili dai cittadini, gli impegni che sono compresi nell'incarico assegnato. Conoscere, parliamo dell'appalto rifiuti, conoscere la tempistica prevista nell'appalto per la frequenza della pulizia delle strade, conoscere queste cose consente ai cittadini anche di collaborare con l'amministrazione, che deve comunque farsi carico dei controlli, che comunque sarà un po' in difficoltà in ogni caso a seguirli tutti, ma credo che anche questo sia un bel modo di partecipare. Può, rendendo trasparenti queste cose, può contare sulla partecipazione dei cittadini, che dice: guarda che questa strada dovrebbero passare una volta alla settimana, sono 2 mesi e mezzo che non passano. Allora ci sono le penali, le cose che vanno applicate, cosa che non è mai stata fatta, in particolare per appalto rifiuti. Poi, se vuoi aggiungere qualcosa anche Bruno, che è particolarmente esperto su questo aspetto, appalto rifiuti che è scaduto da anni, che va avanti in proroga da almeno 3 anni, mi sembra, di più. Si parla reparto milionario. Al reparto milionario che appunto scaduto continua a procedere in proroga, per cui la proroga cosa vuol dire? Che comunque si va avanti per inerzia, che chi ha questo appalto in proroga si sente tranquillo al di sopra del bene e del male. C'è stata una delibera di indirizzo proposta dalle minoranze, in particolare il primo firmatario Bruno Magatti, per dare gli indirizzi per un appalto di raccolta rifiuti di livello europeo, in cui la raccolta differenziata non si ferma al 35%, ma arriva, come in molti altri comuni d'Italia, non solo europei, a livelli decorosi dell'ordine del 70-75%, che sono oltre che utili in termini di compatibilità ambientale, anche utili in termini economici, perché consentono, non sono un costo in più ma sono un risparmio anche dal punto di vista economico. Il problema è che è già due volte che non si riesce ad assegnare questo appalto, quindi un primo impegno, uno dei primi impegni della nuova amministrazione sarà quello di fare in modo che questa gara vada a buon fine e si attivi una raccolta dei rifiuti non come quella che stiamo vedendo in questi anni. La questione degli appalti ovviamente non riguarda solo la questione dei rifiuti, ma riguarda tutte le manutenzioni. Manutenzioni che è vero, è stato detto ed è purtroppo vero, da anni in pratica non si fa più, non solo a livello di strade, ma anche a livello di edifici pubblici. Il prosciugamento di risorse in opere, in grandi opere di dubbia utilità, ha fatto sì che le risorse per le manutenzioni ordinarie venissero sempre più ridotte e limitate, tant'è che anche per le scuole, per esempio, vediamo così, in pratica si va per cicli di manutenzioni straordinarie, per cui ogni anno ci sono un paio di scuole che fanno una, che sono soggette a un intervento di manutenzione straordinaria, poi siccome le scuole sono tante, il prossimo giro c'è tra 10 anni, tra 6 anni, ma nel frattempo tra una manutenzione straordinaria e l'altra non si fa niente, per cui di fatto è necessaria un'altra, e questo dal punto di vista economico-finanziario, come penso possiate comprendere chiaramente tutti, non è assolutamente vantaggioso, oltre che non essere vantaggioso per la qualità di occupazione degli spazi, perché se si sta, si vive, si va a scuola o in strutture degradate, sicuramente non è il massimo che ci si può aspettare. Sul discorso del quartiere di Camerlata faccio un inciso il più veloce possibile, però un'occasione importante è quella dell'area Sant'Anna. Anche qui ricordo che la delibera di indirizzo che prevede l'insediamento della cittadella sanitaria, l'individuazione di una piazza e di spazi comunitari è frutto di una delibera di indirizzo presentata dalle minoranze qualche anno fa e sostenuta anche dai cittadini e proposta dai cittadini del territorio. Sicuramente è un'occasione importante per avere qualcosa di più che una rotatoria al centro di Camerlata, perché di fatto Piazza Camerlata, lo sapete meglio di me, purtroppo non è una piazza ma è una rotatoria, e ricavare all'interno dell'area Sant'Anna degli spazi di vivibilità un po' fuori dal traffico esasperato di queste arterie principali, con luoghi anche di relazioni comunitarie, è molto importante. Sul discorso Trevitex vorrei dire due cose, perché anche su questa cosa non sempre si coglie tutto. Questa situazione di abbandono e di degrado, in questo caso devo dirlo, mi sento di dirlo, non è prima responsabilità dell'amministrazione comunale, anche se a me non fa specie, non è prima, non fa nessun problema continuare a sparare contro questa amministrazione che si merita di tutto e di più. È anche grande responsabilità di chi ha previsto questo intervento, che ha eseguito in modo difforme da quanto previsto dalla concessione che aveva, in sostanza da Esselunga, diciamo, dal signor Caprotti, dal signor Caprotti, che è riuscito a fare al Dadone quello che voleva e ha pensato di fare la stessa cosa qui. Qui era previsto prevista la realizzazione di due medie distribuzioni commerciali da 900 metri, non mi ricordo più adesso, non l'ho ripassato stasera. Separate fisicamente e strutturalmente, e la realizzazione di spazi per uffici di terziario in quelli avanti al supermercato. Allora, voi sapete tutti benissimo che questi due spazi non sono separati strutturalmente, ma sono separati da un pannello di cartongesso appoggiato su dei mattoni, con la cassiera che salta da una parte all'altra quando entrate dentro, e guarda caso il fatto che non sia una cosa perfettamente lineare è dimostrato dal fatto che io non ho mai visto una media distribuzione dove non c'è fuori strada un cartello che indica che c'è. Allora, il blocco è anche fatto per mettere un po' sotto ricatto l'amministrazione, dicendo: o ci fai fare la grande distribuzione da 3.800 metri quadri o ti lasciamo qui la cosa com'è. Allora, sarà da risolvere, però bisognerà anche risolverla senza darla per forza vinta a chi si fa beffe delle regole che aveva prima accettato, perché anche gli spazi per uffici che sono appena fuori dal supermercato sono degli spazi vuoti coperti da pareti di cartongesso. Se andate lì fuori dalla cosa, battete sulle persone, sono pareti di cartongesso dove non c'è nessun entrata, non c'è niente. Ma allora tutto quello che si dice che a giugno partono i lavori per fare il complesso delle seconde, come si suol dire, centro commerciale, sono voci così importanti. Anche perché dobbiamo stare in consiglio, ha fatto l'ultimo consiglio ieri sera e non c'è. Dottore, a me risulta che dice la Bordoglia ha accettato la proposta del signor Caprotti, certo. Ha accettato i soldi del signor Caprotti, quelli che gli si vengono dare o gli sono già stati dati, che la cifra possono anche dire, parlo di 6 milioni di euro aggiunti. E poi che deve essere fatto una specie di torre, per certo. E addirittura un capolinea di una navetta che passa all'ospedale Sant'Anna avanti e indietro. No, quella non l'ho mai sentita. Quella della torre, sì. Io ho servito proprio un responsabile della Sicilia, che tra l'altro parla un po' svizzero tedesco, da Milano ogni tanto che lo e mi dice con questo io giustamente da buon parrucchiere lo ascolto e taccio perché non posso sapere, devo dare atto a quello che mi dice. Ora chiedo a lei che per quanto mi risulta è impossibile, anche perché ma questa voce che a giugno partono i lavori c'è, è vera o non? Io non l'ho sentita, secondo me non mi sembra praticabile, anche perché deve comunque l'accordo di programma essere ratificato dal Consiglio Comunale, che ieri ha fatto l'ultima seduta, probabilmente sarà riconvocato. Sa benissimo, Mario, che io ho qualche voce che mi racconta. Sì, certo. Sono suoi colleghi. Certo. Posso dire. Ah, non si preoccupare, a giugno parto di lavori, si farà questo. E ci sono colleghi e colleghi. Questo sono qui a parlare con lei. Sono qui, punta poco. Certo. So che lei è una persona molto liberata. Beh, sì. Adesso non siamo vicini alle elezioni, qualcuno ha venduto. No, adesso non le do certezze, dico solo, mi sembra molto improbabile. Primo, perché il Consiglio Comunale ha fatto l'ultimo incontro ieri sera, probabilmente potrà essere riconvocato per il bilancio consuntivo, che deve essere approvato per forza entro il 30 aprile, dovranno riconvocarci per forza, ma non credo che questo tipo di delibera possa rientrare in quelle indispensabili di ordinaria amministrazione da farci votare. In più, essendo una variante, comportando una variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale, deve essere approvato anche dal Consiglio provinciale, per cui mi sembra molto improbabile questa cosa. A volte nei confronti dei clienti che mi chiedono, io devo, non so cosa dire, dico quello che sento dire, che mi dicono, però vedo che addirittura mi era stato detto che a Natale dovevo la prima vicina. Allora siamo in media, anche... e non è stato facile. Ora mi viene detto che a giugno parto di lavori, di sicuro parto di lavori per fare a luglio dell'anno scorso dovevano essere pronte le paratie, invece nel 2009 doveva essere finito il cantiere della piccola. Sì, a maggio si porta, questo è bene dirlo. Prima di dare la parola a altre domande, altri interventi. Visto che è anche importante la nostra sanità mentale, siamo stati sottoposti già a cose terribili come Capriotti, Esselunga, appalti dei rifiuti, ma anche paratie, tifosa, cose che fanno male, allora noi forse è il caso che cerchiamo nel bello un antidoto al male. E come c'è scritto lì, vogliamo far crescere un'altra concezione della politica, un'altra concezione della vita, che inevitabilmente passa anche per un'altra concezione dell'arte, dove, come sapete, anche qui la nostra città eccelle per una visione distorta di quello che può essere la cultura, l'arte, questo singolare esempio dei grandi eventi, che è un po' come i buchi nelle montagne, le ferrovie che attraversano territori, i ponti sugli stretti, no? Ci sono tutta una serie, e da noi più banalmente, delle iniziative meno fortunatamente spettacolari. Cerchiamo di dare la parola alla nostra attrice Emiliana, che ci darà con alcune letture uno spazio di libertà, insomma. Intanto, stando seduta e ascoltando voi, scusate le spalle, era bello pensare, stavo immaginando, così proprio con la fantasia, che bello, pensavo, se una volta alla settimana si avverasse questa cosa, cioè uno spazio dove le persone possono trovarsi a leggere, a parlare, a raccontare poesie, perché sono convinta che quasi tutti voi scrivete delle cose, ogni persona scrive qualcosa a modo suo, sia poesia, racconto, ha una predilezione verso quello che può essere la musica, la letteratura, la poesia, però con tutta l'attenzione che dobbiamo avere verso queste cose, ovviamente vengono molto calpestate. E così io ho pensato a tre autori, perché c'è talmente tanta roba e ci sono tantissimi autori da prendere in considerazione, ma ho pensato a tre personaggi che a me piacciono molto perché sono dei poeti, degli scrittori cosiddetti civili, Salvatore Quasimodo e poi Prévert, e poi anche Italo Calvino, che ha scritto quel bellissimo racconto Le città invisibili, dove si immagina delle città felici, interiori, la città che ognuno sogna, la città che ognuno vorrebbe dentro nella città infelice, perché noi viviamo in una città che non la nostra, ma le persone in generale vivono nelle città fatte di mattoni, di realtà molto dure e rigide, e anche di momenti, di circostanze sociali difficili e complesse, però lui si immagina che in questo viaggio, vabbè, lui parla di Marco Polo che fa dei giri e visita queste città, e si immagina queste città che prendono una vita completamente diversa, quindi proprio con l'immaginazione. Mi sono segnata alcune frasi, che poi l'incipit della storia, che dice, recita questa cosa, queste parole. Dunque, l'inferno dei viventi, non qualcosa che sarà, ma qualcosa che esiste, che c'è, è uno, e quello, signori, è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo noi stando insieme. Però ci sono due modi per non soffrire. Il primo riesce facile a molti, e cioè accettare l'inferno e diventare parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo, signori, è molto rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. È questo, cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e quindi, signori, farlo durare e dargli spazio. Questo sono tre righe. Poi vorrei passare, proprio saltare così, a un altro poeta, che è Prévert, che non è soltanto sia il poeta dell'amore, ma è un poeta che ha scritto delle cose che riguardano l'uomo, proprio i sentimenti dell'uomo, e soprattutto dell'uomo del suo tempo, che viveva in un periodo di guerra, in un periodo drammatico. Prévert era un autore molto attento soprattutto agli uomini che vivevano in situazioni della strada, bamboni, mendicanti, all'uomo comune. Questa poesia molto bella di Prévert si chiama Il sole splende per tutti. Il sole splende per tutti, ma non splende nelle prigioni. Non splende per quelli che lavorano in miniera, quelli che mangiano carne cattiva. Il sole non splende per quelli che soffiano le bottiglie vuote che altri berranno piene, per quelli che passano le vacanze nelle officine, nelle fabbriche, quelli che mungono le vacche e non bevono il latte perché lo devono vendere, per quelli che dal dentista non vengono addormentati perché non hanno denaro per essere addormentati, per quelli che hanno il pane quotidiano settimanale, per quelli che l'inverno si scaldano nelle chiese, per quelli che il sagrestano sbatte a scaldare i fuochi, quelli che vorrebbero mangiare per vivere, quelli che viaggiano sotto le ruote, quelli che vivono sopra le rotaie, quelli che vengono assunti, licenziati, aumentati, diminuiti, manipolati, frugati, accoppati, bastonati e ancora di più, quelli che non hanno mai visto il mare, quelli che puzzano di lino perché lavorano il lino, quelli che non hanno l'acqua corrente, quelli che spalano la neve per un salario irrisorio, quelli che invecchiano prima degli altri, quelli che sono soltanto uomini. Questa è una poesia. Ve ne leggo un'altra, è un po', diciamo, io la trovo divertente, parla degli intellettuali, e questa poesia di Prévert è intitolata Non bisogna, signori, no, non bisogna lasciare giocare gli intellettuali con i fiammiferi, perché, signori miei, se lo si lascia solo, il gran mondo mentale, miei sì signori, non è per niente allegro. E non è appena soltanto questo, e non appena è solo il mondo intellettuale, lavora arbitrariamente, innalzando tutto per sé con tante chiacchiere generose, molte chiacchiere generose sul lavoro dei muratori, degli operai. Un automonumento. Ripetiamolo dunque, miei sì signori, se lo si lascia solo, il mondo mentale mente monumentalmente. Contrario, dire se queste belle poesie qui i nostri politici da Roma si leggono e non apprezzano, oppure si comportano non come dire, non valutando queste belle cose, ma fanno quello che vogliono e dicono sempre che dobbiamo far capire agli italiani, dobbiamo far sapere agli italiani, ma gli italiani sono quelli che contano, l'italiano è quello che decide, poi fanno come cazzo. Questa è la porcheria, scusate il termine, la porcheria di questa nazione. E di taluni buoni che fanno brutto e cattivo tempo come vogliono alle spalle di chi lo fa, condizionando il piccolo. Sempre il piccolo. Chissà perché. Mi viene spontaneo pensare perché il comune quando dà un appalto prevede 100.000 euro di spesa, alla fine sono 500. Perché un punto luce, a me che sono cittadino, costa 35 euro, al comune 150. Mi viene spontaneo di chiedere, ma perché questo? Perché continuare a rubare la gente e far capire la gente quando sono più preparati probabilmente di determinati politici? Perché non si può prendere, perché non viene proprio, sa, io sono uno che è lavoro, per cui per guadagnarmi la giornata mi alzo alle 7 del mattino, apro le 8 e chiudo le 8, lei mi capirà, e poi sono anche detto evasore di Stato, mi capisce? Per cui, buon intenditore con le parole, chiudo, scusate se ho detto qualcosa di più. No, no. Non tutto ciò che è poesia è positivo, nel senso Bondi è un poeta, ad esempio. Io ho abitato in questa circoscrizione per 35 anni e ho fatto consigliere di circoscrizione qui dal 90 al 95 e sono orgoglioso del fatto che noi come circoscrizione, una delle prime circoscrizioni del centro-sinistra, non abbiamo votato per il progetto Trevitex, cioè abbiamo votato, abbiamo dato un'indicazione al comune che non è stata ascoltata, negativa rispetto al progetto Trevitex, perché c'erano già molti dubbi in merito a questa operazione, soprattutto alla strutturazione di spazi che replicavano altri spazi subito fuori dalla città, già presenti, supermercati, cinema. Già in prospettiva c'era il cinema a Montano Lucino e quindi è andata a finire come si prospettava. Io riprendo un po' il discorso, la domanda di Ferraris sulla questione di quanto è cambiata la nostra circoscrizione negli ultimi 10-20 anni. Questa circoscrizione aveva già 20 anni fa 19.000 abitanti, quindi è una delle due più corpose, con Sagnino, Tavernola, eccetera. Questa circoscrizione è cambiata tantissimo, una volta era una circoscrizione popolare, adesso è diventata una circoscrizione dormitorio, con presenza di soprattutto persone anziane. Mia madre a Prestino, diciamo che se voi guardate le case di Prestino, la maggior parte sono abitate da vedove, non vedovi, cioè la maggior parte sono vedove, hanno maggiore tenuta le donne in questo caso. E volevo chiedere al sindaco, futuro sindaco, quale sarà la politica di assistenza a queste persone. Io credo che sia una cosa fondamentale far capire che ci debba essere un cambio di politica, soprattutto in campo servizi sociali. Anche perché in questo momento noi abbiamo una rete di lavoratrici straniere che fortunatamente sono presenti sul territorio e assistono le persone, anche a costi molto contenuti. Io continuo a pensare, da sinistra, che alcune cose però spettino all'ente comunale, all'ente comune e allo Stato. Volevo capire qual era il tuo punto di vista rispetto a questa cosa. E non funziona. Sì, non mi sembra un tema che si risolve con una risposta, anche perché cioè, il tema dei servizi sociali in questo momento per il nostro paese, comunque il tema del welfare per il nostro paese e quindi anche per la nostra città è un tema che sta subendo un'evoluzione abbastanza marcata, sia per la significativa riduzione delle risorse che sono a disposizione dell'ente pubblico, sia per la moltiplicazione delle domande che si pongono sul territorio. Io penso che al di là di tutti i soggetti che sono coinvolti nell'ambito dell'assistenza, comunque del supporto alle difficoltà e ai bisogni dei cittadini, che non sono solo l'amministrazione comunale, ma sono anche l'ASL, eccetera, debba comunque man mano essere costruito una rete di relazioni di supporto anche con le realtà associative presenti sul territorio e con le realtà presenti nella comunità. Sono relazioni che in parte vengono costruite o strutturate anche attraverso i piani di zona, che però vanno consolidate e vanno costruite insieme per adattarsi ai bisogni. È stato detto più volte, e anche qui Bruno, se vuole poi può aggiungere qualcosa, nel gruppo di lavoro, hai partecipato anche tu, quindi lo sai, della presenza molto labile ed estemporanea del Comune di Como all'interno dei piani di zona, quindi con l'incapacità di intervenire in termini di costruzione insieme di programmi efficaci sul territorio, quindi questa è una cosa che va sicuramente modificata. Ecco, però affidarsi anche al privato sociale non vuol dire lasciar cadere quelle che sono i compiti primari del comune. Adesso mi viene in mente che per esempio la rete degli assistenti sociali presenti sul territorio, che prima era molto diffusa, molto valida e molto presente fino almeno una decina d'anni fa, è andata via via spegnendosi. Adesso, la settimana scorsa, forse 15 giorni fa, hanno detto che toglievano anche l'assistente sociale alla circoscrizione 1 di Albate. È un po' tutto da ripensare e ricostruire, però davvero rifacendo i conti con le risorse che ci sono, ma anche costruendo una rete di relazioni, di collaborazioni sul territorio che diventano indispensabili anche per ricostruire un senso di comunità, perché forse tanti bisogni che ci sono anche nuovi adesso, e anche perché siamo sempre più isolati, anche perché le relazioni sono anche la cura delle persone, che a volte era anche favorita da una mutualità naturale che cresceva, che era presente nella comunità, e sempre sta perdendosi progressivamente. Quindi secondo me anche il contribuire a ricostruire un senso della comunità è indispensabile anche per far fronte a determinati bisogni, determinati problemi che si pongono come novità sul territorio, e queste cose vanno comunque costruite insieme sul territorio con la realtà che sono presenti. Sono bellissima aggiunta, io non devo aggiungere nulla a Luca, che era con me nel gruppo. Però una delle cose forse che va detta, che non è solo una denuncia, un dato di fatto, insomma, la carenza di risorse da una parte, il sorgere di bisogni nuovi chiede che il tema del welfare sia da affrontare come dice, no, credo che sia una grande responsabilità immaginare di costruire un percorso che costruisca un nuovo modo di stare vicino alle persone. C'è un'inefficienza assoluta al di là della buona volontà di chi opera, perché sostanzialmente si mettono a disposizione delle prestazioni dei servizi in qualche modo standardizzati, che alle volte sono troppo, alle volte sono del tutto inadeguati. Qui la centralità dell'amministrazione è sicuramente fondamentale, ma non credo che oggi le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione siano in grado di affrontare il tema da sé. C'è la necessità che si crei davvero un coordinamento di intelligenze e di competenze. Noi anni fa facevamo in comune un convegno chiamando quello che era sindaco di Abete Grasso, che era stato direttore sanitario di un centro geriatrico che si trova nel centro di Abete Grasso, che aveva costruito dentro questa città un progetto tra, come dire, l'amministrazione e le strutture, che accompagnava gli anziani garantendo delle unità valutative geriatriche in grado di riconoscere determinati come dire, processi che potevano poi portare a cronicizzazione o una incapacità della persona di mantenere l'autonomia, andando a intervenire in queste situazioni cercando di prevenire per quanto possibile appunto questi effetti e sostenendo con tutte le risorse allora possibili, forse più di oggi, l'autonomia. Questo tema del sostenere l'autonomia dell'anziano credo che sia una questione fondamentale. Qui ci sono tutti i problemi della relazione, il tema affettivo, il tema relazionale, il tema del vicinato, il tema dello stimolo culturale, il tema dell'attività fisica, e tutto questo credo che possa in qualche modo essere promosso da un'intelligenza dell'amministrazione, a condizione che si creino le condizioni perché il cittadino non si senta soltanto quello che ha accolto nel momento in cui il bisogno è arrivato oltre una soglia di sopportabilità familiare o personale, ma si senta coinvolto dentro un processo che ti fa diventare insieme agli altri il più possibile ascoltato e capito nei tuoi bisogni. Grazie, buonasera. Io sono nato e ho vissuto a Camerlata per tantissimi anni. Devo però ammettere che Camerlata non l'ho vissuta molto. In compenso però ho avuto il vantaggio di vivere un po' la città in un senso più allargato, quindi estendendosi dal centro fino a fuori. Camerlata dà l'idea di essere un luogo di passaggio, come si diceva, è una rotonda, una piazza, uno smistamento di traffico. Non è neanche una periferia, come ha delle belle periferie rispetto ad altre città, con tante risorse. Camerlata invece risulta spesso di più un luogo di passaggio. Nel lavoro che abbiamo fatto con i gruppi per Mario abbiamo parlato anche un po' di quello che può essere la prospettiva sul futuro di una città che non sia focalizzata solo sul centro, ma che si estenda a tutto il territorio. Quindi chiederei a Mario, visto che siamo qui nella mia zona, di darvi un flash su questa possibilità. E poi così, un mio incoraggiamento in generale è quello di non soffermarsi ai problemi. Io come ingegnere sono abituato a pensare a un problema, scomporlo in sottoproblemi, risolverli uno a uno e aver risolto il problema finale. Si può fare anche di più. Non pensare solo ai problemi, alle cose che abbiamo, ma imparare a pensare un pochettino più in grande, a vedere avanti, a vedere delle risorse più che dei problemi, anche un po' sognare, lasciarci andare, pensare a qualche cosa di bello, cioè non pensare solamente a come dobbiamo risolvere qualche problema che abbiamo, ma pensare a come potremmo sognare una città più bella. Ecco, io spero che questo possiamo farlo. Grazie. Ma al di là di questo, io vorrei invece iniziare dicendo che sono piacevolmente contento di aver visto le modalità con cui si sta svolgendo questa serata, che sono modalità inconsuete per un incontro politico. Dal mio punto di vista penso anche coinvolgenti, perché rompono un po' quella liturgia che per chi come me o come tanti altri qui stasera fanno da molto tempo politica conoscono bene. Ed è un modo anche, io credo, per coinvolgere le persone. Mario prima parlava sul tema della democrazia partecipativa, che non siamo più negli anni del coinvolgimento, ma è anche vero che al coinvolgimento le persone vanno educate. Ecco, io chiedo di prendere spunto da queste, diciamo, da questi elementi magari che non sempre possono avere un'applicazione generalizzata, queste modalità di costruire incontro sui territori, incontri diciamo con modalità diverse rispetto alle comunicazioni politiche che si fanno di solito, per cercare di trovare appunto il coinvolgimento delle persone. Io spero che questo si possa fare non solo in una serata come questa, che per il numero delle persone magari è un pochino cenacolare, diciamo così, ma piacevole, ma si possa anche estendere anche quando il numero delle persone è maggiore. Quindi c'è una modalità anche diversa, credo, di fare politica. Poi ci sono anche dei simboli da dare. Qui chiedo per esempio a Mario, rispetto al coinvolgimento dei territori più periferici della città, magari se si può prendere qualche impegno in questo senso simbolico. È possibile, per esempio, perché io lo so, spero che sarà il nuovo sindaco di Como, che uno dei primi consigli comunali, sia che riguardino temi che riguardano appunto il nostro territorio, sì che non riguardino, venga fatto magari in una sede periferica, in una circoscrizione, venga fatto proprio per dare quella sensazione di non separatezza tra chi sta nel palazzo, tra chi amministra la città e tra chi la vive invece, sia nei momenti diciamo in cui si coinvolgono i cittadini perché ci sono proprio delle questioni da dibattere che riguardano quel territorio, ma anche solo per dare un segnale simbolico, magari con modalità diverse dalle solite diciamo modalità di comunicazione politica. Di sperimentare in questa direzione, io credo che se si ha il coraggio di sperimentare, probabilmente poi il consenso sarà una conseguenza. E un'altra cosa che vorrei chiedere a Maria è questa: nel proseguo della campagna elettorale, che sarà una campagna elettorale dura e dove ci sarà un numero elevatissimo di candidati anche alla carica di primo cittadino alla città, e dove probabilmente però i temi saranno sempre quelli, cioè tutti si spenderanno su delle questioni nodali per la città che però conosciamo, soprattutto per chi vive questi territori, perché c'è nato, perché vive qui da tanto tempo, appunto conosciamo da tantissimo tempo, e sui quali forse vale la pena certamente di spendere del tempo, di dire qual è il proprio punto di vista, ma io credo che per differenziarsi sarebbe magari forse più necessario prendere degli impegni specifici anche qui su questioni che magari sono state meno dibattute in questi anni, ma che hanno però molto senso per chi vive invece nei territori della città. Per esempio, per entrare in questioni concrete, vivendo io nel quartiere di Rebbio da molti anni, io mi auspicherei che la nuova amministrazione e il nuovo sindaco prendano l'impegno di aprire per esempio il parco di Villa Giovio di Breccia alla cittadinanza, se questo è possibile, per dare un nuovo polmone verde, un nuovo luogo di incontro per le persone che vivono in questo territorio. Si parlava prima, poi concludo veramente, della nuova ridestinazione funzionale dell'area ex Sant'Anna, che comprende anche il cosiddetto vecchio ex sanatorio G.D. Grassi, che è proprio qui prospiciente la piazza di Camerlata. Beh, lì c'è un fazzoletto verde, un piccolo parco pubblico di valenza circoscrizionale, che proprio in quella delibera si era detto che avrebbe potuto essere aperto al pubblico. Si spenda anche qui la nuova amministrazione, si spendano anche qui i nostri rappresentanti per dire che questa cosa potrebbe essere importante per il territorio. Non abbiamo neanche un metro lineare di pista ciclabile qui a Camerlata, Rebbio e Breccia, mentre come qualcuno sollecitava prima sono invece necessari percorsi protetti e magari ecologicamente percorribili, proprio perché le persone che vivono qui abbiano la possibilità di vivere meglio in questi territori. Grazie. Thank you. Fabio, su Camerlata ti ha già risposto Andrea. Io salto, no, nel senso che effettivamente gli elementi citati da Andrea su Gibi Grassi, sul parco di Villa Giovio, sono tutti ragionamenti, considerazioni, proposte che erano emerse dal territorio già negli anni scorsi, portate in consiglio comunale, bocciate dalla maggioranza e a volte anche dalla minoranza, perché quella di Villa Giovio è stata bocciata per un voto grazie a Rabinese. E certamente l'impegno a percorrere queste strade c'è, ovviamente non mi sento di dare una garanzia perché Villa Giovio non è di proprietà comunale, mi sento di dare la garanzia che tutti quanti siamo d'accordo che vanno percorse tutte le strade per innanzitutto rendere fruibile quell'area verde, cosa che non dovrebbe costituire particolare problema perché attualmente è assolutamente inutilizzata, è separata dal compendio della villa da una strada, per cui ovviamente sarebbe anche bello riuscire a recuperare in termini di utilizzi collettivi anche la villa stessa. Direi che il parco mi sembra abbastanza concretamente realizzabile anche senza grandi difficoltà. Qualche difficoltà in più immagino che ci possa essere per la Villa Giovio in senso stretto, anche se ci sono varie proposte anche formulate dalla provincia, col conservatorio se non sbaglio, penso che siano molto interessanti, sono lì in sospeso da tempo e sicuramente vale la pena di andare a testare la situazione per cercare di concretizzarlo, perché credo che non faccia piacere neanche all'INEI averli un comparto di questo tipo inutilizzato. Lo stesso vale per il Gibi Grassi, anche questo era dentro il parco del Gibi Grassi nella proposta, nella delibera di indirizzo che avevamo proposto noi, se non ricordo male, mentre è stato accettato il discorso, cioè passato anche con i voti della maggioranza, la proposta di insediamento della cittadella sanitaria, credo di non ricordare male, ma l'apertura al pubblico del parco del Gibi Grassi sia stata bocciata, ovviamente è una cosa che si può recuperare con un'altra maggioranza. Sicuramente gli incontri sul territorio sono importanti, del resto è una pratica che ho adottato già nel percorso delle primarie, che ho fatto basandomi molto su incontri anche piccoli, ristretti, occasionali sul territorio, nei quartieri, perché penso che sia innanzitutto l'occasione migliore per confrontarsi con le persone, quindi sicuramente in termini di valore e di scelta, e poi anche perché in termini di risorse, doversi confrontare con chi ha risorse finanziarie enormi e usare tutti i mezzi del mondo rende ancora più importante la possibilità di andare a incontrare direttamente le persone. Così come penso sia percorribile quella di prevedere anche l'effettuazione di consigli comunali sul territorio. Credo che non dovrebbero esserci particolari difficoltà da parte dell'apparato burocratico, ovviamente non è che si potranno fare 7 consigli comunali all'anno in tutti i quartieri, perché vuol dire comunque spostare anche tutto il personale, le strutture, gli impianti e le cose, però dare un segnale anche in questo senso di attenzione al territorio penso sia una cosa utile, importante, che faccia crescere la sensibilità e la percezione di attenzione da parte dei cittadini. Volevo partire proprio dalla percezione di attenzione da parte dei cittadini. Io sono sicura che Mario Lucini diventerà il nostro sindaco, per cui gli chiedo che cosa pensa di fare per rendere anche il Consiglio un luogo accogliente per i cittadini e le cittadine, perché come molti di voi sicuramente hanno vissuto e come a me è capitato arrivare nello scorso Consiglio Comunale, non era una cosa semplice, bisognava essere molto determinati e sentirsi a casa propria, anche se c'era uno sforzo notevole da fare, perché le cittadine e i cittadini che andavano ad assistere al Consiglio Comunale venivano vissuti come un fastidio e non come una grande opportunità e una grande attenzione alla città. Quindi la prima cosa che chiedo a Mario è che cosa pensa di fare per rendere il Consiglio Comunale un luogo accogliente. E che cosa pensa di fare perché le relazioni tra i consiglieri tutti, quelli eletti nella maggioranza e quelli eletti nella minoranza, siano delle relazioni proficue per la città e non un posto dove confliggere senza che ci sia realmente un bene comune da tenere in mente. L'altra cosa che gli volevo chiedere è, noi abbiamo parlato molto qui di trasformazione di questo quartiere in particolare, io non vivo qui, vivo in Convalle, via Magenta, però penso che il posto dove io vivo sia indicativo di una trasformazione molto forte della città. Io lo chiamo Belleville e lo chiamo Belleville con affetto e mi fa piacere che sia così. Belleville è un quartiere parigino di forte interazione tra persone di origine di vari luoghi del mondo. Io penso che nella trasformazione della città ci sia sicuramente l'invecchiamento molto forte che tutti hanno già segnalato, ma c'è anche l'arrivo di nuove cittadine e di nuovi cittadini. E quindi l'altra cosa che voglio chiedergli è come questi nuovi cittadini e queste nuove cittadine potranno sentirsi cittadini a Como. E ultimissima cosa, noi abbiamo parlato molto qui stasera di bisogni. Molti diritti delle persone sono stati trasformati in bisogni e quindi io vorrei che il nuovo sindaco di Como, con la collaborazione di tutti coloro che saranno eletti insieme a lui, riesca a ritrasformare i bisogni in diritti e renda esigibili questi diritti. Però siccome so che la bacchetta magica Mario non ce l'ha, è stato ricordato anche prima, voglio dire che comunque alcuni sogni, alcune utopie dobbiamo conservarli e deve conservarlo chi si candida a governarla questa città, perché come diceva Galeano, l'utopia è l'orizzonte, man mano che mi avvicino l'orizzonte si allontana, allora a cosa serve l'utopia? Serve a camminare. Mazzo, poche me le hai fatte di domande. Beh, tu sei molto bravo. Molto bravo. Allora, c'è solo il consiglio, anche la casa di tutti. Diciamo che qualche problemino è stato legato anche a un'esperienza un po' traumatica per qualcuno di quella volta che sono venuti gli ultras del gruppo che hanno rischiato di creare, anzi hanno creato qualche problema perché hanno pure tirato un fumogeno eccetera, hanno tirato una sedia in testa a una consigliera. Detto questo, è evidente che quella occasione è diventata anche una scusa per limitare gli accessi in occasioni in cui, diciamola pure tutta, la maggioranza si vergognava un po' di fare quello che stava facendo in presenza dei cittadini. Quindi, allora, delle limitazioni logistiche di spazio ci sono, quindi non possiamo pensare che domani potranno entrare 300 persone in consiglio comunale, perché non ci sta. No, anch'io penso, no, ma per dire, quindi sicuramente non i metodi di schedatura con fornitura della carta d'identità da parte delle forze dell'ordine con accesso selezionato, non credo che sia questa la strada da percorrere, anche perché io voglio, non solo mi auguro, che nessuno si debba vergognarsi di svolgere il proprio impegno davanti ai cittadini. Dopodiché si tratta di attrezzarsi, come peraltro è stato fatto anche qualche volta, rendendo anche accessibile la sala schermi con la sala stemmi con lo schermo, scusate. E quindi ecco, vabbè, evitare di prendere la scusa del pericolo per limitare l'accesso, senza peraltro pensare che possa essere limitato, perché gli spazi fisici sono quelli che sono. Sulle relazioni interne è una bella domanda. Sulle relazioni interne al Consiglio, io penso che il rispetto reciproco, la disponibilità a credere che anche chi siede dall'altra parte possa dirti qualcosa di utile e intelligente per la città, intelligente e utile per la città, sia già un primo passo per creare un clima diverso. Questo spesso non c'è stato. Devo dire che per l'esperienza vissuta in questi anni, con tutta sincerità, temo che con alcune persone non sia sufficiente questo per creare un clima positivo. Speriamo che la disponibilità a creare relazioni diverse faccia cambiare l'atteggiamento anche di alcuni consiglieri attualmente presenti sia tra i banchi della maggioranza che tra i banchi della minoranza, però bisogna essere in due, insomma. Io non sono in grado di garantire per gli altri, sono in grado di impegnarmi per non produrre chiusure precostituite, ma non sono in grado di prevedere come si possono comportare tutti gli altri. Sui diritti trasformati in bisogni, è vero, io penso che su tante cose si debba e si possa intervenire, anche se magari non sempre il Comune ha la possibilità di intervenire in modo decisivo e autonomo per le proprie competenze. Adesso mi vengono in mente il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto alla libertà di culto. Diritto alla casa. Il Comune non ha più fatto quasi alcun intervento di housing sociale ormai da più di... No, beh, uno è stato fatto attraverso l'ALER, proprio qui a Reggio, anche se c'era una scuola, comunque pochissimo. Nel contempo abbiamo qualche centinaio, se non qualche migliaio di appartamenti invenduti o sfitti, cresciuti soprattutto in questi quartieri, li vedete tutti, a partire da quello della Trevite, dove ci sono forse tre luci accese. Allora, quindi, prima di tutto prevedere, anche dosandoli in modo da evitare i consumi eccessivi di territorio, degli interventi di housing sociale. Poi, cosa che è stata fatta in altre città, non è semplicissimo, ma credo che debba essere sperimentata e verificata attraverso strumenti anche concertativi, verificare la possibilità di recuperare ad un accesso sociale tutti questi spazi invenduti. Non è una cosa automatica, non è una cosa che il Comune dice benissimo, questi qui sono chiusi da 3 anni, adesso li dai a me che li affitto per 100 euro al mese, non è così semplice, però è possibile tentare di percorrere qualche strada in questo senso, quantomeno impegnarsi per valutare la possibilità di realizzarla. Questa cosa crepuscolare a mezzo fratello. questo è il cavaliere della tavola del popolo. Sul diritto al lavoro è ancora più difficile pensare a un intervento diretto da parte del comune, però è possibile impegnarsi per dare opportunità nuove di impiego nella città. Certamente una città non curata, degradata, sciatta, poco appetibile per qualsiasi tipo di attività, non incrementa le possibilità di lavoro. Quindi il turismo è un'opportunità importante, io sono convinto non possa essere l'unico settore in grado di sostenere la nostra economia, però una buona opportunità la rappresenta e potrebbe essere molto più valorizzata semplicemente non nascondendo le bellezze che è la nostra città. Quindi una cura diversa della città, una qualità della vita migliore, la cura che dicevamo, aprono prospettive diverse per il turismo, anche incentivando forme un po' più differenziate di offerta alberghiera, che sono quasi esclusivamente di taglio molto elevato in termini economici, quindi una differenziazione anche dell'offerta potrebbe creare nuove opportunità anche di lavoro. Sicuramente il tessile non è morto, ma ha perso molta della valenza che aveva negli anni passati, non bisogna consentire che muoia, quindi rendere disponibili anche qualche spazio per le attività produttive nel comune di Como, che ormai sono praticamente inesistenti. Ma bisogna anche creare opportunità per insediamenti nuovi che guardino un po' al futuro. Della Ticosa non abbiamo parlato, ma tanto per fare un esempio che mi viene in mente a proposito di questo argomento, nelle varie discussioni proposte che avevamo fatto per la Ticosa, che avevano trovato come riscontro da parte della maggioranza semplicemente l'idea che il comune non dovesse decidere niente, ma semplicemente affidarsi al mercato, e questo è il risultato, perché poi il mercato cambia e ti dice che hai sbagliato tutto. Allora, noi dicevamo, tutta la parte nord della Ticosa, a nord di attorno a Santarella, era uno spazio che sia per opportunità nei confronti del futuro, sia per rispetto e valorizzazione della storia di quel comparto, che è stata la vita economica e lavorativa dei comaschi per tanti decenni, creare delle strutture, degli incubatori di impresa, dei centri di innovazione tecnologica, dare l'opportunità per insediamenti di questo tipo. 2 anni dopo ha fatto come un extra romanzo, cosa c'era meglio della Ticosa. Quindi prevedere anche spazi di questo tipo in città per dare prospettive anche economiche nuove è fondamentale, e anche questo va insieme al discorso della cura e della qualità della vita, della pedonabilità, della ciclabilità. L'ultimo insediamento di un certo livello anche internazionale è stato nel 98, se non sbaglio, il centro ricerche della Mercedes a Villa Salazar. E allora, se una città è in grado di offrire una vita gradevole, ha dei servizi efficienti, allora bisogna puntare anche su queste cose, bisogna anche puntare su qualcosa di nuovo, sull'attirare investimenti e iniziative nel campo dell'innovazione, anche appoggiandosi e avendo delle relazioni diverse con l'università e con le potenzialità internazionali dell'università, sia in termini di studenti sia in termini di attività, di convegni, di seminari. E secondo me bisogna spingere molto su questi aspetti per ridare qualche prospettiva, quantomeno creare opportunità. Poi non le può realizzare il comune, ma creare opportunità in questo senso sì. Chiudo sul discorso della libertà di culto, l'ho già detto in varie occasioni, non esiste sentir dire di alcune persone di qualche religione possono trovarsi in determinati spazi, basta che non preghino, che questa era una cosa che mi faceva un po' trasecolare. Allora, il discorso non è tanto quello di realizzare moschee o non moschee, io mi auguro che non ci sia bisogno di consumare nuovo suolo, credo che ci sia la possibilità di ricavare spazi di culto per tutte le religioni in città, in tante strutture che esistono, bisogna avere la disponibilità di renderle praticabili senza nascondersi dietro vincoli di tipo urbanistico che di fatto non sono considerati dirimenti per tutte le altre religioni, a parte quella che le uniche strutture di culto previste dal piano regolatore come tali sono solo le chiese cattoliche, la chiesa ortodossa, la chiesa evangelica, le sale dei testimoni di Geova. Nessuna di queste sale, di queste strutture, sono volte in comune di Como, è identificata dal piano regolatore come luogo di culto, eppure nessuno dice nulla. Quindi non esiste che questo discorso non possa valere per la religione musulmana. Casomai il problema è individuare un luogo in cui ci siano le condizioni per l'affluenza senza problemi, cioè se dobbiamo mettere 350 macchine in una strada larga 2 metri non va bene, ma non perché pregano, non va bene perché non ci stanno. Si trova un luogo dove c'è la possibilità di ritrovarsi. Ce ne sono altri ovviamente di diritti e di bisogni, chiedo l'esonero oppure me li dite e vado avanti. Sì, teniamo conto che il candidato ogni tanto deve anche dormire. Tra una domanda e l'altra può fare. Sì, Mario, nella tua campagna e nel programma soprattutto, sembra quasi uno slogan, ma ci auguriamo che non sia solo uno slogan, è la persona al centro di tutto. Credo che quindi un candidato sindaco innanzitutto per dare il messaggio alle persone che questo sarà, debba prima di tutto conoscere di quale città e quindi di quale persone si andrà ad occupare, perché è una dichiarazione che implica una grande responsabilità. Non sta dicendo il candidato sindaco metto al centro di tutto gli spazi o le case, metto al centro di tutto la persona. Il Mario Riccini ha potuto già prendere atto e quindi sta conoscendo la sua città in quanto tale, cioè mi spiego meglio, sa come è tessuta, uso un termine teste, della serie, quante famiglie ci sono, quante famiglie intese proprio come nucleo familiare compongono la città, quanti nuclei familiari che non, magari non sono riconosciuti tali ma ci sono, intesi proprio come, perché in realtà la famiglia non è solo la classica famiglia vissuta come nucleo familiare padre, madre e figli, ma ci sono realtà ben diverse, quante famiglie nuove che provengono da altri paesi ci sono, quante persone che vengono a studiare a Como, quindi che frequentano l'università, quanti studenti, quanti giovani precari ci sono in città. Credo che le domande che si deve fare un candidato sindaco sia innanzitutto conoscere e darsi queste risposte per capire quali sono i bisogni reali, perché se non riesce a identificare questi bisogni reali non può neanche fare un buon lavoro poi in seguito. L'altra domanda è: quali sono i messaggi forti affinché le persone riacquistino quella pezzetto di di fiducia nella politica e di voglia di partecipare, che a Como assolutamente è quasi assente. Quali sono i tuoi messaggi forti il giorno stesso in cui diventerai, si spera, sindaco? Prima di occuparti delle buche nelle strade, qual è il messaggio tuo che devi dare alle persone, dato che tutta la tua campagna elettorale ha detto al centro metto le persone? Sono proprio continuando in questo ragionamento. Questa forma che ci siamo dati, un po' circolare, che c'è anche poi nel, come dire, nel logo del, di Fare Comune, che vuole essere, come dire, un modo sperimentale, magari banale, però non più consueto, di trovarti intorno a un tavolo tutti a ragionare tutti insieme. Però siamo meno di quello che speravo fossimo, nel senso che in qualche modo una comunicazione era stata fatta di questa serata. Allora capire però dove, se questo modo può essere interessante, come andare avanti, cioè come riuscire a passare dalle 30 persone che eravamo a molte di più, perché altrimenti diventa solamente una cosa simbolica, mentre come dire, questo voleva essere una cosa anche proprio concreta, no? Cioè un percorso di democrazia, perché la gente sempre di più, dappertutto, ma anche in questa città forse anche più che da altre parti, si allontana dalla politica, dice che sono tutti uguali e magari non va neanche a votare, oppure se va a votare spesso va a votare male. E allora invece, come dire, io credo che un discorso come dire, una sinistra oggi sia non possa che passare dal rimettere un contatto, da far capire che non che Maria Lucina non è uguale agli altri, per dirne una, cioè che ci può essere un altro modo di fare politica con un rapporto diretto fra i cittadini, dove i cittadini non vengono usati. Una seconda cosa, che nella, come dire, nella questa scenografia, in qualche modo questa cosa della luce centrale voleva essere anche simbolica del fatto che ci sono quelli che stanno a parlare, quelli che fanno fatica a parlare, e allora poi la maggioranza delle persone non hanno voce. Allora l'idea, non ci siamo riusciti solo in parte, è quella di essere quasi in ombra, no? di non avere un volto, di non avere quasi un volto, perché altrimenti non è uguale, cioè non è, come dire, la luce non è democratica da un certo punto di vista, perché passa dalla capacità oratoria o meno. Un'ultimissima cosa, giovedì prossimo c'è un altro, una seconda puntata di questa cosa qui, che è a Masriano Zagnino, a Monte Olimpino, scusate. E sperando di, ecco, però la domanda, e ho finito, è come possiamo essere più di così? E poi, secondo voi, sta funzionando questo modo di questa proposta e questo esperimento? Grazie. Chiederei a Mario di rispondere naturalmente alle ultime due domande, alle sollecitazioni, e poi chiudiamo un altro pezzetto che Diana ci concede di letteratura importante. Ma stavo pensando, siccome è Fare Comune, se voi siete d'accordo, potremmo fare un gioco, un gioco letterario, poetico. In questa sala da diversi anni io conduco i corsi di teatroterapia, di recitazione, e alla fine, quando chiudiamo la serata, tutte le persone, non guardarmi così terrorizzato, tutte le persone recitano assieme qualcosa. Io domando, siccome è una cosa Fare Comune, perché devo chiudere soltanto io con la mia voce? Chiudiamo tutti insieme, anche un bel cerchio, se voi siete d'accordo ovviamente, non sarete castigati se non lo farete. Io pensavo di leggere magari un pezzetto, no, tutta la poesia Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo, che è abbastanza breve, e se io leggo per esempio la prima riga, se voi siete d'accordo potete, direi quasi in una maniera corale, un po' come avveniva anche nel teatro greco, potreste ripetere, se volete, lo possiamo, o almeno chi vuole farlo lo fa. Però scusami, facciamo prima però dare l'ultima risposta, in modo che questo è il bello. Io speravo che mi scampasse l'interrogazione, perché tu hai detto che c'è l'interrogazione, l'interrogazione l'ha fatta lei all'ultima domanda, quante famiglie, quanti precari, quanti... No, cioè la domanda era, hai studiato? Hai studiato? Allora, io per ora sto ancora studiando, so che gli stranieri sono arrivati circa al 13% della popolazione. Quante famiglie, quanti nuclei familiari, non me lo ricordo a memoria. E tra l'altro i nuclei familiari, per quanto riguarda il comune, i servizi comunali sono nuclei familiari anagrafici di residenza, per cui comprendono tutte le tipologie. Io penso che però, non, al di là della conoscenza di quanti sono gli stranieri, quanti sono i precari, quante persone sono in difficoltà, quante persone sono assistite in un modo o nell'altro, quante persone sono a rischio di varcare la soglia della povertà, sono tutti elementi sui quali ragionare e progettare degli interventi. Non credo sia fondamentale, oppure ti dico francamente, non sono in grado di darti i numeri adesso. Ma più che altro non mi riferivo tanto ai numeri, che avessi tu studiato i numeri, ma al fatto che tu stia prendendo coscienza di quali dovrebbero essere i bisogni dei tuoi. Certo, questo mi sembra che comunque di questo abbiamo parlato, avete ragionato voi nei programmi, nei gruppi del programma mi avete dato molti elementi e abbiamo parlato un po' anche questa sera. Credo che la cosa fondamentale sia anche incontrare le persone come stiamo facendo questa sera, non pensando di creare l'evento per far confluire centinaia di persone col nome in grado di catturare l'attenzione e la curiosità, ma anche pensando a piccoli incontri diffusi e continui sul territorio per andare noi a incontro alle persone senza aspettarsi che debbano per forza venire loro. Sui messaggi forti è un po', per il mio carattere, è un messaggio che potrebbe essere letto anche in modo ambiguo. Io credo che i messaggi, poi quelli più efficaci, li studiano i comunicatori. Io credo che, al di là di quello, il messaggio principale che io mi sento la responsabilità di dare, che cerco di portare, è quello della testimonianza di un modo di essere, di un modo di pensare, di un modo di vivere. Questo è quello, è il messaggio sul quale mi sento di impegnarmi, mettendomi di fronte alle persone così come sono, nudo tra virgolette. Dopo ci sono altre questioni, che sono le modalità di intercettare l'attenzione delle persone con strumenti o con formule più o meno efficaci, questione che però affrontano altri e che possono essere utili per estendere le modalità di intercettazione dell'attenzione delle persone. Però credo che la cosa fondamentale sia quella, attraverso l'incontro, di testimoniare quello che si è, e lasciando alle persone la libertà poi di valutare e di scegliere. Sugli incontri non so, parliamo, e credo che comunque sia importante creare occasioni. Poi sulle modalità e sulle formule più efficaci forse ci si può ragionare con più calma, anche al di fuori di questa sera, nel senso che intanto si è creata un'occasione di incontro. Credo che l'importante sia seminare, dare opportunità, poi accettando anche la libertà delle persone di approfittare o meno di queste opportunità, ovviamente cercando di essere il più possibile in grado di creare interesse e creare voglia di partecipare. Io lascerei a Mirko. Prima ve la leggo tanto per darvi un'idea del senso della poesia, e poi se volete facciamo come? Facciamo il coro greco. Sì, facciamo tutti assieme. Vabbè, poi abbiamo il professor Saladino. Lui in greco. Lui fa in greco. Lui lo fa in greco. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto, dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu, con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, oh figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Ho cercato di imparare la memoria, non ce l'ho mai. No, ma andiamo a pezzettino. Allora, voce alta. Mi raccomando, articolate bene. Prima di tutto alza la voce così sentiamo bene. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga. Con le ali maligne. Eri nella carlinga, con le ali maligne. Le meridiane di morte, ti ho visto. Le meridiane di morte, ti ho visto. Ti ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. Ti ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. Eri tu con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio. Io ho visto con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio. Senza amore, senza Cristo, eri tu. Senza amore, senza Cristo, eri tu. Hai ucciso ancora, come uccisero sempre, come uccisero i padri. Hai ucciso ancora, hai ucciso sempre, uccisero i padri. Come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. Questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello. Questo sangue odora come quel giorno quando il fratello disse all'altro fratello. Andiamo ai campi. Non ridete. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te. fredda, tenace, è giunta fino a te. È giunta fino a te, dentro alla tua giornata. È giunta fino a te, dentro alla tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue. Salite dalla terra, dimenticate i padri. Salite dalla terra, dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere. Le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Senti, ma ci conosci. Ma abbiamo ripetuto non ridete. No.